9. Ascolta e controlla. 1. Questo è uno straordinario risultato. 2. Questo è un grande risultato. 3. Loro hanno uno stupendo lavoro. 4. Loro hanno un difficile lavoro. 5. Lavora in uno studio di architettura. 6. Lavora in un famoso studio di architettura. 7. Gli artisti preparano uno spettacolo nuovo. 8. Gli artisti preparano un nuovo spettacolo. 9. A casa è necessario un piccolo spazio dove mettere tutti i documenti. 10. A casa è necessario uno spazio dove mettere i documenti. 11. Gli zaini sono pesanti. 12. I nuovi zaini sono pesanti. 13. Gli stipendi sono alti. 14. I loro stipendi sono alti. 15. Gli sgabelli sono scomodi. 16. I nostri sgabelli sono scomodi.